Italia in controluce. Sono le 13:33 minuti e 4 secondi, una nuova puntata di Italia in controluce condotta da Daniele Biacchesi, tutti i giorni due edizioni, i reportage sulla cronaca italiana secondo Radio 24. Il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, in Somalia, venivano uccisi in un agguato Ilaria Alpi del TG3 e il suo operatore Miran Rovatin. 16 anni dopo, per quell'omicidio non vi è alcuna giustizia. Ilaria Alpi aveva intercettato un traffico di sostanze tossico-nocive e armi che venivano trasportate attraverso le navi della cooperazione italiana regalate alla Somalia prima e durante la guerra civile. Queste navi partivano dai porti di La Spezia, Livorno e Gaeta, una pista che venne confermata a Ilaria dal sultano di Bosaso durante un'intervista di almeno 3 ore, ma la cassetta ritornò in Italia tagliata e ridotta in pochi minuti. Questa che sentirete è Luciana Alpi, la madre di Ilaria, durante una delle conversazioni inedite che mi sono servite per realizzare un libro, Passione Reporter, quello che ho scritto sui giornalisti uccisi nelle zone di conflitto. La certezza ho che la volontà giudiziaria, che non ha più che politica, perché sappiamo tutti e tutti dicono che i giudici sono indipendenti, sono qui, sono lì. Allora, se sono così indipendenti non si capisce perché non fanno chiarezza su questo duplice omicidio. Ma noi abbiamo delle cose che se dovessimo metterle in fila, ma non ci sta ad ascoltare nessuno, a chi lo diciamo? A chi ci rivolgiamo noi quando un procuratore capo non ti degna a due cittadini che hanno perso una figlia in un modo così barbaro, non sono nemmeno degni di avere uno straccio di risposta e dire no, noi il DNA non ve lo concediamo. Poi ci devono dire perché questo signore si è tenuto 12 anni la macchina, questo Giancarlo Marocchino, dove stava questa macchina? Ma pensi lei quanti perché senza risposta noi stiamo dicendo in giro. A proposito del sultano, che lei diceva che è stato Ilaria, è stato l'ultima persona che ha intervistato prima di rientrare a Mogadiscio e morire, è stato interrogato dal presidente della commissione d'inchiesta, il quale gli ha detto che Ilaria era completamente a conoscenza dei traffici, non andava lì per chiedere, ma andava lì per verificare le notizie. E questo sultano ha detto in commissione che l'intervista è durata quasi 3 ore. Noi abbiamo 25 minuti di girato. Domanda, dove è finito il resto? E poi il ruolo degli apparati dello Stato. Anche quelli, lei pensi che c'era una informativa che diceva che Ilaria era stata minacciata di morte a Bosaso, poi era stata cancellata questa frase con un tratto di penna e non si è mai saputo chi l'ha cancellata, perché non è stata data l'allerta immediatamente, l'avrebbero salvata, perché è successo a Bosaso, l'avrebbero magari avrebbero fermato gli assassini o avrebbero preso Ilaria e Miran e li avrebbero messi al sicuro se questa informativa fosse venuta fuori in tempo debito. Invece non è stato fatto niente. E con chi ce la prendiamo noi? No, qui veramente la giustizia in questo paese, almeno per quanto ci riguarda, io non voglio fare il calderone, quelli che sono capitati a noi, siamo stati veramente sfortunati, ma veramente. Perché abbiamo trovato delle persone insensibili che non vogliono la verità. A questo punto posso dire con certezza che non vogliono la verità, perché sennò ci avrebbero anche trattati come genitori un pochino diversamente, se non altro con rispetto che noi vogliamo e che esigiamo, che vogliamo rispetto da questa gente. Io ti scrivo, tu mi rispondi. Perché lo trovo anche al limite maleducato, perché io, se qualcuno mi scrive, io rispondo. Ma due poveri cittadini, a chi si rivolgono? Noi siamo andati una volta al CSM e ci è mancato poco che mi mettessero in galera a me, perché ho detto alcune cose, dico per dire, insomma, no? Mi hanno trattata malissimo. E a chi ci rivolgiamo? Qual è l'autorità, l'istituzione che protegge i genitori delle vittime? Dov'è? Noi ci hanno fatto fuori una figlia di 32 anni in un modo barbaro, si sono comportati loro in un modo barbaro da quando la Salma è rientrata in Italia, che hanno avuto anche poco rispetto di nostra figlia. Non hanno fatto l'autopsia, hanno fatto due riesumazioni, una vergogna. È stato scritto dall'allora presidente della commissione d'inchiesta Taormina, che ipotizzava il fatto che Ilaria e Miran... È andata a fare i bagni. Però voi, per esempio, quando si era insediata la commissione, avevate speranze perché la politica potesse fare chiarezza su questa vicenda? Noi le speranze, insomma, se c'è qualcuno che fa qualcosa per nostra figlia, è logico che la speranza ci viene, perché noi vogliamo questa verità, che non abbiamo altro. Il nostro figlio non torna più, almeno la verità, perché è morta, chi e perché, vorremmo sapere. Perciò quando ci hanno proposto questa commissione, noi abbiamo sperato, come tutti quelli che ci stanno vicino, dal nostro avvocato in avanti, tutti abbiamo sperato che qualcosa venisse fuori. Sì, ci sono tanti omissi, roba segretata che poi verrà fuori, non lo so come, però qualcuno potrebbe anche lei, questo noi l'abbiamo detto al nostro pubblico ministero, non bisogna leggere solamente la relazione di maggioranza, bisogna leggere anche quella di minoranza, che ha la sua importanza. E peraltro ce ne sono varie di minoranze. Ce ne sono due, e perché non la leggiamo quella e non andiamo a fare le pulci sulle cose che dicono? Perché è comodo leggere quella di Taormina. Che cosa resta oggi della memoria di Ilaria? Mi lasci dire una cosa che non dovrei, io sono la madre, non dovrei dire, di una donna molto colta, molto preparata, molto studiosa, perché ha passato la sua brevissima vita a studiare, a interessarsi dei popoli a cui lei amava, cioè l'Africa. Lei era laureata in lingua e letteratura araba, era uno che conosceva l'arabo scritto e parlato, non a chiacchiere, scritto e parlato, conosceva l'inglese e il francese, per cui voglio dire, hanno tolto la vita a una persona che poteva fare delle cose buone in questo paese. Scusi se mi sono permessa di glorificare mia figlia. Noi dobbiamo essere non grati, ma gratissimi all'opinione pubblica. Non parliamo delle scuole, degli uffici, delle sale comunali che hanno intitolato a lei. Non vi siete sentiti soli per quanto riguarda l'opinione pubblica? Assolutamente no. Ma vi hanno lasciati soli quelli che avrebbero dovuto... Le istituzioni di questo Stato ci hanno lasciati soli, soprattutto la magistratura. Italia in controluce. 13:40 minuti e 52 secondi, il racconto di Italia in controluce. Il 22 marzo si celebra la giornata mondiale dell'acqua. È un appuntamento di buon senso e di grande impegno civile. Il racconto di Laura Bettini. Il 20 marzo a Roma a manifestare saranno in tanti. Attenti quindi a controllare se vi state accodando al corteo che desiderate. A questo governo noi diciamo che l'acqua è nostra! Ci saranno tra gli altri anche i movimenti italiani per l'acqua, in piazza contro il processo di privatizzazione dei servizi idrici, un processo che è in atto da 15 anni, ma l'ultima svolta l'ha impressa il governo Berlusconi, con l'articolo 15 del decreto 135 del 2009. Che cosa si stabilisce? L'abbiamo chiesto all'avvocato Gianluigi Serafini, di Lexius Sinacta, esperto di privatizzazioni di servizi pubblici. Sostanzialmente il decreto impone una privatizzazione generale dei servizi pubblici e quindi, per quanto concerne l'acqua, prevede la privatizzazione del servizio del ciclo idrico, in particolare della gestione del servizio del ciclo idrico, prevedendo che le attuali concessioni in essere per la gestione, che hanno una durata mediamente trentennale in questo momento, vengono a scadenza entro dei termini predefiniti, anticipati, con l'obbligo di indire delle gare per far sì che la gestione dell'acqua venga trasferita ad operatori professionali con strutture a prevalenza di capitale privato. Il primo punto che resta aperto è la problematica connessa alla soppressione degli ATO, che oggi sono la fonte principale di regolamentazione della parte tariffaria e della parte di controllo dell'attività di servizio. Collegato poi alla struttura della privatizzazione della gestione c'è tutto il problema della struttura degli investimenti e del riparto nell'ambito della componente tariffaria fra pubblico e privato e quindi poi sul cliente finale del costo dell'investimento. Il Forum dei Movimenti Italiani per l'Acqua intende ora promuovere 3 referendum abrogativi di tutte le norme che privatizzano l'acqua. Perché, dice Marco Bersani, qui non si tratta di ideologia. Io cito solo 4 aspetti. Il primo è questo: da quando le municipalizzate sono diventate SPA, gli investimenti sono crollati a un terzo, cioè se prima della legge Galli, cioè del 94, gli investimenti erano pari a 2 miliardi di euro l'anno, ora non superano i 700 milioni l'anno. Secondo motivo, le tariffe. Solo nell'ultimo decennio le tariffe sono aumentate del 62% a fronte di un'inflazione che non supera il 21%. L'occupazione e la precarizzazione del lavoro, da quando ci sono le SPA, l'occupazione nel servizio idrico è diminuita del 30%, e l'ultimo dato è quello dell'aumento dei consumi e dello spreco della risorse. I consumi e la risorsa sono aumentati oltre il 20% e gli stessi piani d'ambito approvati negli ultimi anni prevedono da qui al 2023 un ulteriore aumento del 18-20% dei consumi di acqua. Essendo l'acqua una merce, più se ne consuma e più gli introiti aumentano. Diverse regioni hanno impugnato di fronte alla Corte Costituzionale il famigerato articolo 15 del decreto 135 del 2009. La Puglia ha anche già sancito l'avvio della ripubblicizzazione dell'acquedotto pugliese, definendo il servizio idrico come servizio di interesse regionale privo di rilevanza economica. Ma è la Sicilia uno dei motori della protesta. Quando il compianto giudice Borsellino arrivò in Sicilia e cercò di fare la mappa delle famiglie mafiose, per completarla, diciamo per avere la mappa adeguata, prese poi la mappa dei pozzi d'acqua e scoprì che le due coincidevano. Secondo i Movimenti per l'Acqua siciliani, non è un caso che siano proprio in questa regione 6 delle 7 gestioni totalmente private dei servizi idrici esistenti in Italia. Molte altre, infatti, sono a capitale misto. E le gestioni, denunciano, sono state affidate con gare d'appalto poco trasparenti e i risultati sono assai deludenti. Per esempio, il servizio idrico integrato, cioè quello composto da acquedotto, fognature, depurazione e quota fissa, ad Agrigento costa mediamente 445 euro l'anno. Ma l'acqua arriva in alcuni quartieri una volta alla settimana. La media italiana è 253 euro e a Milano se ne pagano 106. Il movimento di protesta siciliano è forte e coraggioso e la settimana scorsa ha presentato alla Regione Siciliana una proposta di legge di iniziativa consiliare firmata dalla provincia di Messina e da 135 comuni di centrodestra e centrosinistra. Antonella Leto. Nella legge prevediamo che la gestione torni ad aziende speciali consortili fatte dai comuni, quindi eliminando totalmente la possibilità della gestione attraverso la SPA. Il 20 marzo saremo a 2 giorni dalla giornata mondiale dell'acqua e a una settimana dalle elezioni regionali. Il momento è propizio per riflettere anche su questo tema. Sono le 13:46 minuti 11 secondi, era il racconto di Italia in controluce, la cronaca secondo Radio 24, il nostro archivio dove potete sentire tutte le puntate dal 18 gennaio in onda su www.radio24.it. Per comunicare con noi avete 2 possibilità, la bacheca di Radio 24 Italia in controluce o su Facebook oppure la mail controluce@radio24.it. Domani alle 6:30 per una nuova puntata.